Radio24.it. La passione accende il web. Capuano al palo! Capuano! Che gol di Capuano! Quasi da centrocampo, comunque da tre quarti. Un sinistro al volo impressionante. Tutti convocati. Di Giovanni Capuano. E dunque il derby d'Italia, certamente più inutile di questa stagione, l'ha vinto l'Inter. Non è stato un bello spettacolo, ma del resto era difficile pretendere di più nel caldo umido di Miami, con le gambe imballate dalla preparazione e secondo me anche un po' di paura, visti i risultati precedenti. Ha vinto l'Inter, la Juventus torna in Italia con un bilancio che recita 3 partite, 0 vittorie e 3 sconfitte, di cui 2 maturate come questa notte ai calci di rigore. Ovviamente non c'è da fare nessun processo alla Juventus, per carità, però questa notte Conte non era soddisfatto di quanto visto in queste 3 partite e ha provato a spiegarlo così. Vorremmo comunque sempre vincere. Però ci sta anche, ecco, nel momento in cui il mio presidente mi chiederà come obiettivo dell'anno di vincere la Guinness Cup, io farò una preparazione diversa, altrimenti cercherò di concentrarmi sul campionato, la Coppa Italia e di passare il turno in Champions League. Noi tutti, io per primo, la società, i calciatori e i tifosi devono capire che quest'anno sarà un anno difficilissimo, e ve lo dice uno che ha vinto in carriera ma non ha mai vinto 3 scudetti in vita sua, nonostante la squadra di Lippi ha fatto 4 finali consecutive, 3 di Champions League e 1 di Europa League. E cercheranno di farci passare dei messaggi che il campionato è stato vinto, che siamo bravi, e noi dovremmo essere molto intelligenti, molto bravi, di questo sono sicuro, perché ho dei ragazzi che seguono, sono attenti, determinati, a non cadere in questa trappola. Buon pomeriggio Matteo Marani, direttore del Guerri Sportivo. Ciao Matteo. Ciao, buon pomeriggio, bentrovati. Beh, bravissimo Conte, eh? Il giorno in cui sì, la società mi chiederà di vincere la Guinness Cup, farò la preparazione per vincere la Guinness Cup, che vuol dire praticamente, io provo a tradurlo, non rompetemi le scatole, si fa sul serio dal 18 agosto, giorno della Supercoppa, ma in realtà credo che l'obiettivo, il mirino, sia spostato anche più avanti. A livello dialettico ha disinnescato subito la miccia di questo bilancio di 3 sconfitte, che non è comunque un bilancio da Juventus. No, direi traduzione perfetta, però mi pare che ci sia un Conte abbastanza, come dire, nervoso, sulle corde, cioè che cerca di tenere molto, molto vivo il gruppo, che sottolinea, come dire, questa fame che quasi trasmette fisicamente, da quello che leggiamo anche dai resoconti di chi è stato dietro la Juve in questi giorni. Lui sicuramente sa, tra l'altro ricordava nelle sue parole, quanto è difficile ripetersi e vincere per 3 volte in seguito, tant'è che la Juve, a parte la famosa Juve del quinquennio, quella degli anni 30, non è più riuscita a vincere 3 scudetti di fila, perché è veramente una grande impresa. Quindi credo che lui se ne dà conto della cosa, e se c'è un minimo di appagamento nel gruppo cercherà di toglierlo. Poi gli amichevoli in sé per sé valgono poco o nulla, soprattutto se si vincono e se non si perdono, perché quando poi in Italia si perde, basta anche questo per aprire processi. Io credo che questo dipenda un po' dal marketing. Negli anni le amichevoli estive sono diventate sempre più importanti, sempre più di richiamo contro squadre di fame, di gloria. È evidente che se perdi magari contro il Chelsea, contro altre squadre, fa un po' più notizia rispetto magari a una partita che facevi prima in montagna. Sì, è purtroppo la condanna delle nostre squadre che girano il mondo legittimamente a caccia di ingaggi. Inter, Juventus, Milan portano a casa tra i 2 e i 3 milioni da questa tournée negli Stati Uniti, però poi c'è anche il rovescio della medaglia. 800 24 00 24, per i vostri interventi in diretta, potete anche scriverci 349 238 6666 per i vostri sms, oppure seguirci su Twitter, il profilo è @tutticonvocati. Mi interessa conoscere che cosa ne pensate di quello che avete visto o non visto questa notte, dipende se vi siete alzati, se non l'avete fatto non avete perso nulla, ve lo dico. Io dico subito il mio pensiero, lo abbiamo detto, non c'è nessun allarme per Conte, anche se qualcosa va corretta, perché ad esempio anche contro l'Inter Tevez non ha brillato, poi ci sono comunque errori che si ripetono, aveva avevamo parlato di Pirlo nei giorni scorsi, questa notte è stato Buffon che ha mezzo regalato il gol ad Alvarez. Per quanto riguarda l'Inter invece, poi sentiremo un Mazzarri soddisfatto, non lo so, certamente meglio che contro il Valencia, del resto era impossibile fare peggio, però in difesa l'Inter continua a essere troppo perforabile. Matteo Marani, io, e questa è la mia sintesi, dico che c'è poco da sorridere per tutti e due, anche se per motivi diversi. Sì, però io onestamente prenderei con il relativismo, voglio dire, sono comunque amichevoli e sono due allenatori, Conte e Mazzarri, che secondo me si assomigliano più di quello che crediamo, cioè sono allenatori che hanno bisogno di lavorare, hanno bisogno di lavorare nel tempo e che giustamente secondo me sfruttano l'estate per preparare bene le loro squadre. E quindi le squadre in questo momento sono magari un po' impallate, non girano ancora pieno, ci sono giocatori in ritardo, non conto ora, conta come dire quando si partirà in effetti a fine agosto e lì sarà decisivo, per la Juve un po' prima ovviamente, però credo che questo periodo qui vada sfruttato. E poi sono due allenatori molto esigenti, cioè che nella fase diciamo di preparazione riescono e vogliono trasmettere il più possibile, sono quasi fisici nella loro conduzione delle squadre. Però ripeto, secondo me è molto prematuro dare giudizi ora. Sì, non dobbiamo esagerare nel cercare di analizzare, di capire anche tra le righe che cosa ha detto questa amichevole. Però a me ad esempio ha colpito che tutti e due, Conte e Mazzarri, alla fine in una partita che comunque aveva un certo peso, anche psicologico, visto da dove venivano Inter e Juventus, abbiano messo nell'undici titolare un solo uomo proveniente dal mercato. Tevez per la Juventus e Campagnaro per l'Inter, tutti gli altri seduti ordinatamente in panchina. Non lo so, a me questi segnali non piacciono, anche se siamo nemmeno a Ferragosto e c'è davanti una vita per smentire tutto questo. Però evidentemente non si sono ancora integrati, non hanno dato ancora quel minimo di garanzia che serve per giocare anche un amichevole. Ma sai, nel caso della Juve, la Juve c'è stato un mercato, soprattutto per l'attacco, e diciamo uno dei due grandi acquisti dell'attacco era presente. Il mercato dell'Inter per me ancora non è pervenuto di fatto, perché se facciamo fatica a giudicare lo stesso mercato, cos'è il mercato dell'Inter? Campagnaro è un acquisto che era stato fatto già nei mesi scorsi, l'attacco parliamo di due giovani, Icardi e Belfodil. Di fatto non è ancora partito e mi pare anzi che tra le righe incominci a sfiorare un po' il malumore di Mazzarri rispetto a questa vicenda qui, perché Mazzarri è uno che è abituato a lavorare nel tempo con i giocatori, appunto nella fase estiva, e ritrovarsi ancora, come dire, fermo, immobile dal punto di vista degli acquisti, credo che questo possa essere un grosso problema. Sì, anche perché un mese fa Pinzolo aveva già fatto l'aziendalista dicendo che in pratica aveva tutto come voleva tranne un esterno, quello però gli serviva. È passato un mese e l'esterno non è arrivato, un po' di impazienza, ma qualcuno l'ha anche scritto in questi giorni, comincia a leggersi tra le righe. Lo sentiamo Mazzarri questa notte dopo la vittoria ai rigori contro la Juventus. C'era bisogno di una prova convincente, mi è piaciuto tutto della squadra, la fase difensiva, la solidità in fase difensiva, ma anche il gioco, le ripartenze, certi movimenti. Oggi ho visto una squadra che si avvicina molto al mio modo di vedere il calcio, che porto avanti da tanti anni. E sto cominciando a vedere che la squadra, oltre, lo sapevo che cercava di venirmi dietro, ma comincia a acquisire certi movimenti, certi meccanismi, certi... La mia organizzazione, che ripeto porta avanti, l'avevo portata avanti a Napoli, prima la Sampdoria, prima ancora la Regina, eccetera, eccetera. Quindi sono contento in così breve tempo di notare che questi ragazzi hanno già capito molto di quello che voglio. Mazzarri contento, contentissimo. Matteo Marani, io ho l'impressione che lui stia facendo molto anche lo psicologo, l'ha fatto anche dopo il Valencia, assumendosi gran parte delle responsabilità per quella figuraccia, probabilmente lo fa spingendo molto anche sul tasto della soddisfazione dopo i 90 minuti contro la Juventus. 800 24 00 24, se volete dirci che cosa ne pensate in diretta. Tu Matteo cosa ne pensi? Ma penso che Mazzarri sia un allenatore che è chiamato a un compito molto difficile, intanto perché prende una squadra che ha chiuso al nono posto, non dobbiamo mai dimenticarlo, il mercato non l'ha fatto, cioè l'Inter è passato dal tanto, troppo del mercato, di anni di acquisti, magari anche sempre non fortunatissimi, all'immobilismo assoluto, io credo legato ovviamente alle questioni societarie, cioè finché non c'è chiarezza se arriverà o non arriverà a Tuir, difficilmente l'Inter può agire sul mercato perché non si capisce, quindi, il processo decisionale in questo momento chi lo governa. Però dicevo, Mazzarri ha un compito molto difficile, tra l'altro deve cambiare radicalmente il modo di giocare la squadra, la difesa 4 deve passare a 3 con tutti gli automatismi che vanno provati, dopodiché secondo me un allenatore, l'ha dimostrato la sua storia, 12 anni senza mai un esonero, grandi successi eccetera, che se ha tempo, soprattutto se ha una stagione senza impegni in coppe come avrà quest'anno l'Inter, per me rimane uno dei migliori, e quindi credo che alla fine, come dire, la sua idea di calcio la si vedrà, la sua organizzazione la si vedrà, però certo deve gestire questo, e soprattutto, se posso aggiungere, Giovanni, per la prima volta si trova a guidare, come dire, una piazza che dal punto di vista mediatico non è facile, cioè, per carità, Napoli è grandissima e importantissima, ma l'Inter è l'Inter, con tutte le sue delicatezze del caso, e quindi anche da questo punto di vista psicologico, di attenzione ai messaggi, deve stare molto molto più attento. Sì, scrive Salvatore su Twitter, chiocciola tutti convocati, a Napoli conosciamo bene lo stile comunicativo di Mazzarri, sempre contento, molto aziendalista, ma in cuor suo scalpita, aggiungo Salvatore, non potrebbe fare nulla di diverso in questo momento all'Inter, un po' perché è appena arrivato, un po' perché c'è una situazione societaria che evidentemente è di stallo, è di attesa di qualcosa che sarà certamente, probabilmente dopo Ferragosto, ma con ricadute già si dice da gennaio in poi, però in questo momento non è, e quindi non consente grandi margini di manovra. Siamo al 7 agosto, Matteo Marani, noi non vogliamo tirare delle conclusioni, tu ad esempio sulla prima pagina del Guerri Sportivo, che è in uscita nel fine settimana, sorrisi e campioni, metti le facce di Llorente, Gomez e Higuain. Il mio parere è che la Juve resta comunque una spanna davanti a tutti, anche se non ci sarà nulla di scontato nel prossimo campionato. Mi pare di capire che tu accrediti Napoli e Fiorentina come prime rivali. Secondo me oggi quello è il podio, poi ovviamente non so in che ordine di arrivo, però credo che siano le tre squadre più forti, per ragioni diverse. La Juve è sicuramente consolidata nella continuità, il Napoli ha fatto un mercato formidabile, comunque è vero che ha perso Cavani e ha perso il suo allenatore, però ha investito tutto quello che aveva guadagnato, e tra l'altro leggo, vedo, sento che vuole continuare a prendere, quindi è molto carico da questo punto di vista di Laurenti. E poi c'è la Fiorentina, che sulla carta secondo me è la squadra più bella e intrigante, ancora da finire alcune cose, mancano i tasselli soprattutto difensivi, ovviamente il portiere, ma se dovesse arrivare Giulio Cesar, io credo che la Fiorentina sia una seria seria candidata per anche per il campionato, e credo che siano queste. Le milanesi aspettiamo di capire cosa succederà nel mercato, perché al momento sia l'Inter che il Milan sono di fatto fermi. Sì, Giulio Cesar, do l'aggiornamento di mercato, entro due giorni dovrebbe esserci l'incontro decisivo, il brasiliano che però è stato messo fuori rosa dal Queen's Park Rangers pare essersi convinto a ridurre il suo stipendio per rientrare nei parametri della Fiorentina, siamo quindi intorno al milione e mezzo, milione e otto di euro netti a stagione, e quindi entro il fine settimana Montella potrebbe avere il suo portiere titolare. Per chiudere, Matteo Marani, ho letto con interesse l'intervista ad Allegri oggi su diversi quotidiani, una serie di messaggi mi sembra tutt'altro che casuali da parte del tecnico del Milan, i due che mi interessano di più sono questi: il primo, Berlusconi avrà quattro uomini offensivi in campo come vuole, però a seconda dell'avversario non è detto che si giochi sempre con il tridente, che è un tasto dolente visto il mese di giugno che ha vissuto Allegri, che hanno vissuto i tifosi del Milan. Ma io credo che lì la corrente rimarrà sempre alta, il voltaggio, nel senso che i due più si sopportano che si piacciono, insomma mi sembra che ci sia una convivenza talvolta forzata, però nel mezzo c'è Gagliani, che poi alla fine è il grande garante dell'operazione, della conferma di Allegri, e secondo me finché Gagliani è dalla parte di Allegri, finché Gagliani rassicura la posizione di Allegri, io credo che Allegri possa lavorare. Poi avremo, ripeto, qualche tensione, magari qualche uscita sui giornali, qualche intervista, qualche parola, anche perché spesso scappa il presidente, quindi però per il momento la situazione mi pare come una convivenza obbligata. E poi l'altro messaggio è quello per Balotelli, ha detto Allegri: Balotelli non può essere il leader psicologico del Milan perché è un bambinone un po' timido, è ovviamente il leader tecnico e a lui ci appoggiamo, però deve ancora crescere. Io lo voglio vedere anche in chiave nazionale, perché Prandelli in realtà ha cucito la nazionale per i prossimi mondiali intorno a Balotelli, lo ha reso vero e proprio leader secondo me anche oltre i meriti di Balotelli. Mi sembra che Allegri non abbia parlato anche in questo caso così, tanto per dare una risposta. Io dico, aggiungo, che però è uno dei pochi campioni che abbiamo in casa. Non c'è dubbio. Sì, vuol dire, tolto al netto delle balottellate. Scelta obbligata quella di Prandelli, scelta obbligata quella di Allegri. Non abbiamo un giocatore di questo livello se non lui. Aggiungo che il Milan nel momento del mercato quella cosa è rientrata, però concettualmente sul mercato aveva messo il Sarabi, non aveva messo Balotelli, cioè è lo stesso Gagliani, dalle sue parole diciamo intorno a giugno era stato chiaro sulla leadership, su chi è il leader di questo Milan. lui gode in questo momento, hai ragione, gode Balotelli di una fiducia assoluta, sia da parte del suo club, del suo allenatore, della sua dirigenza e del commissario tecnico nazionale. Bisogna che lui onestamente lo ripaghi, anche perché sono 23 gli anni, quindi insomma è concesso un'età che un padre come lui deve incominciare a usare in modo giusto. Sì, continuare a disegnarlo come un ragazzino che deve crescere rischia di farlo transitare nell'età della maturità senza che forse quel processo sia stato stimolato anche da fuori. Credo che tra le righe Allegri, che ha fatto proprio riferimento ai 23 anni nell'intervista, un po' abbia anche voluto dire questo. Grazie a Matteo Marani. Grazie a voi, buona giornata. Tutti convocati. Scrive Daniele su Twitter, i giornalisti perché devono essere scorretti? Non è vero che l'Inter non ha fatto mercato, ha preso i vari Belfodili, Cardi, Campagnaro, Andreolli, Laxalt. Non è vero che non sono nulla, non credo fosse questo il senso dell'intervento di Matteo Marani. Sottolineava Matteo Marani che, a differenza di quanto accaduto altre volte in passato, questa volta l'Inter a metà agosto non ha un mercato ancora delineato e così importante per la squadra titolare, solo questo. E poi noi comunque siamo stati i primi a dire che ci ha colpito che ieri sera nelle due squadre ci fossero soltanto in partenza due uomini provenienti dal mercato. 800 24 0024 per dirci che cosa ne pensate. Lorenzo da Firenze, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie per avermi convocato. Niente, io sono un tifoso della Fiorentina e volevo sapere cosa ne pensavate di un nostro giocatore, se non è bellissimo, Borja Valero. Borja Valero è un giocatore ottimo, è stato, io credo, Lorenzo, una delle chiavi dell'ottima stagione dell'anno scorso della Fiorentina e tra l'altro secondo me anche la testimonianza di come si possano fare degli ottimi affari anche senza spendere. La Fiorentina l'anno scorso è stata bravissima intanto a puntare sul calcio spagnolo, che tradizionalmente non aveva mai dato giocatori funzionali al nostro campionato o comunque spesso aveva riservato delle delusioni, e poi è stata bravissima a pescare in quel vivaio che era il Villarreal in difficoltà per la retrocessione. Ha pescato Borja Valero, ha rinforzato la difesa e quindi devo dire, da questo punto di vista, sicuramente Borja Valero un giocatore importante, credo lo sarà anche in questa stagione. A proposito di Allegri, sentiamolo. Allegri, devi migliorare un po' nel contesto di squadra, nel mettersi più a disposizione per la squadra, e come fanno tutti i campioni. Ma è un ragazzo sereno, anzi è anche un buon ragazzo, non crea problemi, ha voglia di mettersi in discussione, poi ha trovato un gruppo che l'ha accolto bene, dove lui si trova molto bene. Ma promesse no, è normale che è sempre sotto tiro, è provocato, deve essere molto bravo nella gestione anche in campo. E si parla ovviamente di Mario Balotelli. A proposito di Tevez, io l'ho detto, il mio giudizio anche sulla partita di questa notte di Tevez non è un giudizio positivo, 5 e mezzo, via, se si dovessero fare le pagelle di questa amichevole. A proposito di Tevez, da un paio di ore circola su internet la sua intervista in esclusiva rilasciata a ESPN, che ha un passaggio particolare, lo sentiamo, poi vi spiego che cosa sta dicendo. Sì, siempre dije que me iba a retirar a los 28 y no. Ya pasaste los 28. Ya va a ser los 28. Pero estuve a punto también de retirarme. Después de la pelea de Roberto, uno ya estaba muy cansado también. Ya estaba 6 años en Inglaterra y ya me hacía falta un cambio de aire. ¿Y qué pasó ahora? Bueno, llegó la Juventus, ¿no? Que es, como te digo, uno de los clubes más grandes de Europa, con un crecimiento impresionante. Avete sentito Tevez che dice: ho pensato anche di ritirarmi dal calcio. Il riferimento è ai mesi in cui era finito fuori rosa al Manchester City. Per la lite con Roberto Mancini ho pensato anche di ritirarmi perché dal calcio avevo ricevuto tutto, poi dopo sono arrivati dei grandi club, è arrivata la pace con Mancini e ora Tevez è alla Juventus. 800 24 0024 Luca dalla provincia di Bari, buon pomeriggio. Salve, buongiorno. Prego. Senta, io volevo parlare un po' della mia squadra. Io sono tifoso dell'Inter, ho visto la partita di stanotte in pratica. E niente, io ritengo Mazzarri un ottimo allenatore, solo che i giocatori hanno una mediocrità eccessiva. Cioè, io ho visto l'Inter di Stramaccioni ieri sera un po'. Poca qualità, cioè, dice? Sì, molta poca qualità. Cioè, se vede Ranocchia non fa un anticipo come difensore centrale, uno in una partita. Pereira ha dei limiti, Juan Jesus deve crescere molto. Alvarez solo con il piede, non so dove possiamo andare. Cioè, non voglio essere molto critico con la mia squadra, però è la realtà. Cioè, questi sono gli elementi e dobbiamo fare di necessità virtù su questo. Io non vedo, se rimane la situazione così, grossi miglioramenti rispetto all'anno scorso. Beh, io credo, Luca, che fare peggio sarà difficile, non dico impossibile, perché l'Inter parte dal nono posto. A me non piace addossare le responsabilità alla difesa. Anche questa notte ci sono stati degli evidenti problemi, perché tutte le volte che la Juventus è riuscita, anche nelle fasi in cui l'Inter ha giocato meglio, sembrava in parte padrona della partita, in tutte le fasi in cui la Juventus è riuscita ad avvicinarsi all'area di rigore dell'Inter ci sono state delle difficoltà, ci sono stati degli errori. Juan Jesus ne ha fatti, ha commesso troppi falli, al di là del calcio di rigore che può anche essere stato un po' generoso, però da questo punto di vista a me non piace addossare tutte le responsabilità alla difesa, perché mi sembra che l'Inter abbia anche dei problemi davanti alla difesa in questo momento, però abbia anche tempo per provare a correggerli, soprattutto partendo dal mercato. 800 24 00 24, Francesco da Parma, buon pomeriggio. Buongiorno e grazie per avermi chiamato. Prego, dica. Io volevo dire qualcosina, apro una parentesi, sono uno sportivo, nulla contro di Allegri come persona, però sì, obiettivamente come allenatore lui, invece di spronare i suoi, cioè un buon allenatore, un buon condottiero deve spronare i suoi ragazzi, deve aver fiducia nella sua truppa. Lui tutte le volte che parla è ma, mi, mo. Quindi io sono milanista, io sono convinto che il Milan non sia quella squadra eccezionale che, voglio dire, non è la squadra dei Sacchi e dei Capelli e degli Ancelotti, indubbiamente. Però, soprattutto in Italia, a mio avviso, con l'organico che si ritrova, non è secondo a nessuno. L'unico problema, secondo il mio punto di vista, ripeto, come allenatore, non come uomo, perché magari, anzi, sicuramente sarà simpaticissimo ed è una gran brava persona, però obiettivamente come allenatore non è da Milan, perché non ha quel carattere vincente, e mi auguro con tutto il cuore di sbagliarmi, non ha però quella grinta, quel carattere, come può essere un Conte, che come persona mi è antipatico, solo come persona, però lui li sprona i suoi, li difende. Sì, Allegri è sempre un mi, mo, ma, in sa, Balotelli, abbiamo un grandissimo campione, un altro grandissimo campione che è il Sarawi, dei ragazzi validi, e non li sa sfruttare a maniera. Però mi sembra Francesco, Voglio fare l'allenatore che, certo, non ne capisco assolutamente niente. Mi sembra però, Francesco, mi perdoni, intanto che Allegri abbia già dimostrato di essere da Milan e di poter vincere, lo ha fatto conquistando lo scudetto il primo anno e andandoci vicinissimo il secondo, anche se io considero il suo vero capolavoro la stagione scorsa, mi sembra che questo Milan abbia dei limiti. In Italia se la può certamente giocare con chiunque, ma ha un reparto difensivo che secondo me è inferiore, e non di poco, a quello della Juventus, inferiore probabilmente al reparto difensivo del Napoli, anche se andrà verificato ora la qualità dei nuovi ingressi. Mi sembra soprattutto che Allegri abbia dimostrato carattere nel saper resistere a una pressione esterna, a una pressione ambientale importante. Altri hanno ceduto prima, non è facile convivere nel Milan con Berlusconi e con quel rapporto che delineava anche prima il direttore del Guerin Sportivo Roberto Marani, che è comunque un rapporto di odio-amore, quindi io credo che Allegri sia da promuovere assolutamente, con un'incognita: Allegri parte come allenatore che ha il contratto in scadenza. Questo non è mai facilissimo nella gestione di uno spogliatoio. Roberto dalla provincia di Napoli, buon pomeriggio. Buonasera, sono di Firenze. Prego allora, Roberto da Firenze. Se posso, tre considerazioni veloci su Juve, Napoli, Fiorentina, che anche per me sulla carta sono le cose. La Juve, i top player, Llorente e Tevez, secondo me proprio top player, se erano top player non avevano esperienza di contratto. Il Napoli secondo me bisogna vedere se si è rinforzato, perché è vero che ha preso Higuain, ma ragazzi è andato via Cavani. L'unico vera squadra che mi intriga a me è la Fiorentina, ecco, cosa ne pensa lei? Ecco. Ma che la Fiorentina intriga e intriga tantissimo, ma anche per la qualità del gioco che Montella gli ha fatto esprimere nella passata stagione e che quest'anno dovrebbe essere confermata, se possibile anche migliorare. E poi a me intriga questa sfida di Giuseppe Rossi, che torna dopo due stagioni travagliatissime e che può essere un uomo che fa la differenza e che sposta gli equilibri. Quanto ai top player, io non so se in Italia in questa estate sono arrivati o no dei top player. So che Tevez è comunque un ottimo giocatore, e se è arrivato alla Juventus è perché si erano create le condizioni. So che un attaccante come Llorente preso a parametro zero è comunque un grande affare, perché la qualità di un giocatore non la fa necessariamente il prezzo sul cartellino. Credo che la Juventus in partenza resti una spanna sopra rispetto al Napoli, rispetto alla Fiorentina, però penso anche che sarà un campionato più aperto rispetto a quello che l'ha preceduto. Ha scritto Giorgio al 349-238-6666: Napoli per ora 17 nazionali ed è anche più forte della Juventus. È vero, il Napoli ha 17 nazionali, però sta cambiando molto, sta cambiando pelle, quindi bisognerà dare il tempo a Benitez di far adattare i suoi. Roberto da Torino, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio a lei. Prego. Volevo chiedere, visto che parliamo sempre di Juve, Milan, Inter, giustamente che sono le grandi squadre italiane, ma anche nel mercato del Toro, che ha fatto queste vendite però non ha ancora acquistato nessuno. Cosa ne pensa? A me sembra, Roberto, che quest'estate in realtà Urbano Cairo abbia investito dei milioni, abbia fatto degli investimenti su giocatori che in prospettiva possono regalargli qualcosa. Poi ovviamente ha dovuto anche vendere. La storia con Rolando Bianchi era una storia finita, credo per interesse di tutti e due. Può essere doloroso per i tifosi del Torino, però era un legame che non stava più in piedi. Secondo me Urbano Cairo ha venduto bene Ogbonna a 15 milioni di euro, con quei soldi sta costruendo il nuovo Torino. Credo che i tifosi del Toro debbano dargli un po' di fiducia e avere un po' di pazienza, e poi comunque manca ancora poco meno di un mese di mercato, quindi c'è tempo. Soprattutto negli ultimi giorni succederà molto, e non soltanto ai club di prima fascia, io credo anche e soprattutto a quelli che vengono dietro. Tutti convocati. Vi va se parliamo di arbitri? 800 24 0024 per le vostre telefonate in diretta. Parliamo di arbitri perché da ieri su internet circola questo video di cui vi facciamo sentire i rumori. Go. Sono i rumori di come vive e sente una partita un arbitro. Ci sono ovviamente anche le immagini ed è un video che merita davvero di essere visto. Lo trovate anche sul nostro sito www.radio24.it. Su Twitter abbiamo pubblicato il link diretto, quindi se non avete visto questo video andate a guardarlo perché merita. Sono immagini e suoni dell'amichevole tra la Roma e le stelle della Major League Soccer lo scorso 2 agosto. Buon pomeriggio Graziano Cesari, ciao Graziano. Buon pomeriggio, ciao. Ti ritrovi in questi rumori? mi piace molto, mi piace, che emozione. Davvero, guarda, io ti dico la verità, ho visto il video, al di là delle immagini che sono comunque spettacolari, ma noi siamo abituati a tanto, a tutto oramai, con la televisione HD, con 30 telecamere per partita, a me hanno colpito soprattutto questi rumori, perché noi che il calcio lo seguiamo anche allo stadio, se non dalla poltrona davanti alla televisione, questi rumori non li abbiamo mai sentiti. Io li sentivo bene invece, quando ero in campo li sentivo benissimo, quindi adesso sono felice che qualcuno possa anche documentare quello che vede l'arbitro attraverso una telecamera, quello che sente l'arbitro, quello che è lo stato d'animo che vive, no? È uno stato d'animo unico ed è anche difficile da spiegare agli altri. Sì, in questo video c'è ad esempio quest'arbitro che fa i complimenti per un gol della Roma, dice che golasso. A te mai è capitato di fare i complimenti? Sì. Ti ricorderai quel famoso gol di Giorgia F? Quella rovesciata che è andata a finire sugli abbonamenti. Inter-Roma. Ecco. Esatto. E io ho dato la mano a Giorgia F che mi sembrava veramente qualcosa di spettacolare, tant'è che è rimasto un gesto quasi unico, no? Direi irripetibile. È chiaro che fai i complimenti, ma anche a tanti altri calciatori. Ricordo per esempio delle telepunizioni battute magistralmente, e io mi complimento, perché credo che sia abbastanza normale, no? Sì, c'è un rapporto con i giocatori, io ripeto, andate a vedervi il video, www.radio24.it, perché era anche un clima da amichevole, anche se in realtà c'è anche un momento, un po' di tensione, però c'è questo dialogo continuo con gli occhi, con una pacca sulla spalla, tra questo arbitro, i giocatori della Roma e questi giocatori americani, è davvero una visuale particolare. C'è anche un elemento in più, Graziano. Noi spesso, noi che dentro il campo non siamo, non teniamo in considerazione, ad esempio, al di là della visuale dell'arbitro, che voi giudicate anche per quello che sentite, che è una dimensione che non si può percepire né allo stadio né in televisione. Hai detto una cosa molto molto giusta, innanzitutto partirei dal rapporto di personale, no? Di conoscenza per il calciatore. È chiaro che se uno fa l'arbitro per molti anni, e molti anni nella stessa categoria, diventa un rapporto, non dico amichevole perché c'è sempre una differenziazione tra la figura dell'arbitro e quella del calciatore, ma sicuramente di conoscenza. E quindi inevitabilmente c'è il tu, così come ci sono anche determinate situazioni. Spesso noi ci arrabbiamo, anch'io per primo, quando vediamo un giocatore che non è ammonito e magari meriterebbe dal regolamento il cartellino giallo. Ma c'è un rapporto diverso, sul terreno di gioco ci sono sensazioni totalmente diverse. E poi effettivamente è vero quello che tu dicevi, cioè il rapporto sul terreno di gioco non si può mai comunque spiegare, perché è un rapporto molto molto molto particolare. Può essere un esperimento interessante questo della telecamera sugli occhiali dell'arbitro. Io non sto parlando per le televisioni, che ovviamente sono a caccia sempre di qualche innovazione, sto parlando magari proprio per cercare di avvicinare il pubblico a quelli che sono le difficoltà, ma anche il fascino del ruolo dell'arbitro. Per quello che riguarda le difficoltà e il fascino, è chiaro che sarebbe più semplice spiegarlo attraverso una telecamera. Quello che l'arbitro vede e quello che l'arbitro non vede, quindi non può essere assolutamente giudicato. Altresì diciamo che c'è il rovescio della medaglia, che è estremamente importante, perché l'arbitro se vedesse con la telecamera una trattenuta in area di rigore e non concedesse un calcio di rigore, ecco fatto che potrebbe essere smascherato, per non certamente per essere un cuore di leone. Ecco, c'è sempre il doppio gioco. Chiaramente a me interesserebbe invece vedere quello che succede al direttore di gara, come un direttore reagisce a un certo tipo di situazione, che è una cosa bellissima, e da lì si va poi a giudicare la prestazione. Intanto la stagione che sta per partire, ho l'impressione, non sarà semplicissima, soprattutto all'inizio. Siamo maestri, non solo noi italiani, a cercare di complicarci la vita. Un anno fa in Italia si decise all'ultimo momento di inserire i giudici di porta per essere i primi a farlo, e lo abbiamo visto, ne abbiamo anche parlato nel corso della stagione. Ci sono stati dei vantaggi, ma ci sono stati anche degli evidenti problemi. Io cito il titolo del Corriere dello Sport di un paio di giorni fa: i club disperati per il cambio della regola del fuorigioco scrivono agli arbitri: aiutateci, non abbiamo capito nulla. Beh, se questa è la partenza, ho l'impressione che in autunno ci sarà da ridere. Dai, mettiamola sul ridere. Sì, mettiamola sul ridere, però diciamo effettivamente che non è una cosa molto molto facile, anche perché il gruppo arbitrale che deve applicare questo nuovo regolamento è lo stesso dell'anno scorso, quindi è difficile cambiare nello spazio di un mese una mentalità su una regola così già complicata.

intriganti rispetto a quelle che si leggono sui vari ANSA, calciomercato, eccetera, eccetera. Sulla perché Roma? Sulla Roma, i reparti, se diciamo presa per reparti, secondo voi, considerato il reparto difensivo, diciamo d'attacco e di centrocampo, è all'altezza, diciamo così, delle vostre amate milanesi? Guardi, di amato abbiamo ben poco, Marco, e mi sembra che quello che abbiamo detto prima sul Milan dovrebbe toglierle ogni dubbio. Sulla Roma io mi sono espresso anche ieri, non capisco perché debba andare a trovare un'alternativa ad Osvaldo. Oggi addirittura sul Corriere dello Sport c'è scritto: Osvaldo all'asta, la Roma cerca un uomo da 20 gol, cioè che è Osvaldo. Poi capisco che ci sono i problemi ambientali, e quindi probabilmente Osvaldo deve andare via. Maicon è una scommessa, ma se fosse una scommessa vinta darebbe certamente qualità al reparto difensivo della Roma. Strootman lo volevano in tanti, l'ha preso la Roma. Secondo me la Roma è destinata a una stagione importante, da verificare a questo punto è l'impatto di Rudy Garcia. Che la verità è nessuno lo conosce, nessuno sa che tipo di risultato possa dare nel campionato italiano. Grazie Marco. Ci scrive Nico da Caserta: se l'anno scorso per Nicchi è stato positivo per gli arbitri, vuol dire che quest'anno il Milan vince lo scudetto. Adesso non esageriamo, dai. E poi scrive Sara, parlando di Valentina Vezzali: onore al merito, ci mancherebbe per il valore sportivo e per il fatto che è un'ottima mamma. Si dimentica anche l'impegno politico. Non dimentichiamo nulla, Sara. Tra l'altro, purtroppo Valentina Vezzali è stata eliminata ai quarti di finale del mondiale di scherma a Budapest, però fra qualche minuto parliamo di donne, di maternità e di vittorie sportive. Tutti convocati. Dario da Pescara, buon pomeriggio. Buongiorno. Prego. Due cose, complimenti innanzitutto per la trasmissione. Grazie, dica. Notazione di Serie A, innanzitutto credo che in questo marasma di squadre la Fiorentina possa fare una bellissima figura avendo una coppia d'attacco veramente fenomenale, visti anche gli attaccanti della Juventus che fanno fatica. Per quanto riguarda la Serie B, è un piacere vedere il mio Pescara giocare con Marino, che credo sia un ottimo allenatore, meno spregiudicato di Zeman, ma già si sono visti i risultati, e con Livorno e anche col Monaco. Volevo sapere cosa ne pensava. Grazie. Io penso che Marino sia davvero un ottimo allenatore, penso che si debba avere la pazienza di fargli costruire un progetto. Mi sembra che la Serie B che va ad iniziare non abbia dei padroni definiti, e quindi chissà, si possono aprire spazi per tutti, si possono aprire spazi magari anche per il suo Pescara, a patto però di non pretendere di avere dei risultati nell'immediato, di non pretendere di poter ripetere con certezza la cavalcata ad esempio del Pescara di Zeman, che aveva una qualità differente, che aveva degli uomini che erano fuori categoria, e quindi poi Zeman è stato bravo ad amalgamarli. Bisogna vedere se Marino avrà in mano la stessa qualità di squadra. A proposito invece della Fiorentina, lo stanno dicendo un po' tutti, io aggiungo una valutazione in più. Secondo me alla Fiorentina manca ancora qualcosa per profondità di rosa, perché la Fiorentina avrà da affrontare l'Europa League, non è un impegno semplice, è un impegno che toglie tantissime energie, soprattutto fisiche oltre che psicologiche. Il calendario della Fiorentina non è bellissimo, soprattutto quello di ritorno dai giovedì in giro per l'Europa, e quindi c'è il rischio che Montella butti via qualche punto, soprattutto nella prima fase del campionato, in attesa di prendere le misure con questo doppio impegno, e quindi da questo punto di vista ci sarà da fare qualche valutazione. Però certamente la Fiorentina è una bellissima squadra, ha un bellissimo gioco, gioco e credo che sicuramente avrà un ruolo da protagonista in questa stagione. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Ieri c'è stato un derby tra tennisti italiani. Noi vi facciamo sentire questa voce, è la voce di Pippo Volandri. Vi ricordate Quincy, il giovane italiano che ha vinto a Wimbledon? Beh, sentite Volandri come ne parla. Sì, bella sensazione, peccato un po' per come andava, sospette le luci, abbiamo dovuto continuare in condizioni difficili. Faccio i complimenti a Gianluigi perché gioca veramente molto bene, insomma, deve arrivare per i primi 10 perché sennò è un fallimento per lui. Ma chissà che cosa ha fatto Quincy a Volandri, vai a capire alle volte quali sono i rapporti tra questi atleti. Un altro aggiornamento di mercato ci porta alla vicenda di Adem Ljajic. Oggi sui giornali l'ipotesi di una clausola anti-Milan che la Fiorentina vorrebbe inserire nel rinnovo di contratto del giocatore, un contratto con una clausola da 12 milioni però esercitabile soltanto da club stranieri. Ci sono alcuni che hanno un po' storto il naso. In realtà, spiegano gli addetti ai lavori, è qualcosa che si può fare e che è già stato fatto in passato, ad esempio dalla stessa Fiorentina. Si parla della vicenda, ad esempio, del passaggio di Toni al Bayern Monaco. Noi però ve l'avevamo promesso, adesso cambiamo decisamente terreno, lasciamo il calcio, parliamo di donne, di grandi atleti, parliamo di mamme. Buon pomeriggio a Chiara Cainero, che è la donna e la mamma, la futura mamma del giorno. Ciao Chiara, buon pomeriggio. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Già olimpionica di tiro a volo a Pechino, 5 anni fa, da ieri anche campionessa europea nello skita, squadra individuale. Oggi la sua foto sorridente la trovate su quasi tutte le prime pagine dei giornali italiani, non solo sportivi, c'è addirittura sul Corriere della Sera. Com'è il giorno dopo la grande impresa, Chiara? Ma il giorno dopo la grande impresa è particolare perché non mi aspettavo tutta questa risonanza, sinceramente. Fa un certo effetto essere un po' ovunque. Stanno arrivando molte telefonate, molti messaggi di complimenti, quindi non me l'aspettavo. Insomma, ho vinto questo campionato d'Europa dopo 2 prove di Coppa del Mondo negli ultimi 2 mesi dove ho fatto 2 ore, quindi per me questa è la prima volta che succede che faccio 3 piazzamenti sul primo gradino, no? Uno di fila all'altro, quindi... Insomma, sono contenta, adesso mi godo il momento, appena torno a casa mi godo questa maternità. Sono in tanti che si sono esercitati questa mattina sui giornali a raccontare la tua storia, a raccontare la storia di Valentina Vezzali, a raccontare la storia di non tantissime, però ci sono anche altri casi, ci sono anche lì agli europei di tiro al volo di atlete, mamme che hanno gareggiato durante la gravidanza oppure sono tornate a gareggiare ad altissimo livello dopo. Ti dà fastidio o sei d'accordo che tu e le altre possiate essere prese come esempio di come le donne possano restare se stesse anche durante questi momenti che sono momenti unici della vostra vita? No, fastidio no, assolutamente no, credo che insomma sia io che le altre atlete che hanno gareggiato in maternità sicuramente hanno preso le giuste precauzioni, no? Per evitare qualsiasi tipo di rischio al bimbo. Come ho detto più volte nelle interviste, l'importante è usare il cervello, non stancarsi, fare le cose al punto giusto, ecco, quindi no, fastidio no, anzi, insomma, ben venga che se ne parli in maniera positiva. Ecco, la gravidanza, la mia ginecologa alla prima visita mi disse non è una malattia della donna, è una condizione fisiologica e ascoltando il proprio corpo devi poi adattarti ai cambiamenti, no? Sì, ci sono donne, la maggior parte delle donne che proseguono a lavorare fino a un mese, a due mesi dal parto. È giusto dire che tu sei stata agevolata dal fatto di praticare uno sport che non è di contatto, però non è nemmeno giusto far finta che sia stato tutto facile. Io ho letto che comunque hai ridotto di molto i carichi di allenamento. Sì, per forza, perché comunque, insomma, anche se fisicamente mi sentivo bene, cioè nel senso che sentivo che potevo spingere, mi era stato proprio imposto dalla dottoressa, mi ha detto: se tu vuoi arrivare a fare la tua ultima gara all'europeo, dobbiamo dosare le forze fino alla fine, anche se tu ti senti di fare, è meglio che ti trattieni. Quindi io ho seguito la lettera, quello che mi diceva lei, sia dal punto di vista fisico che insomma dal punto di vista alimentare, no? Che c'era anche bisogno di seguire un certo modo di alimentarsi per non avere troppe nausee, troppi fastidi. Penso, i problemi che in tanti conoscono. Davvero, davvero ieri Edoardo si chiama, giusto? Edoardo, sì, di mio nome, Edoardo Lamartina. Davvero ieri Edoardo ha scalciato durante la finale, bellissimo, Sì. Poco prima di entrare, poi appena ha iniziato a sparare si è calmato, si vede che io ero calma, lui si è calmato. Non te la saresti mai potuta prendere con lui se ti fosse costato la medaglia? No, assolutamente no. A metà settembre ci sono i mondiali in Perù, ho letto che però non ci sarai. Non vado, devo prendermi adesso un periodo di pausa, sicuramente no, basta, adesso diventava veramente impegnativa la cosa. C'è anche un problema, credo, di lunghezza del viaggio, andare in Perù logisticamente non è semplice per chi sta entrando nel settimo mese. Infatti ho avuto proprio la fortuna comunque di aver fatto queste gare vicino in Europa, perché sicuramente se si trattava del Messico, dell'America, mi avrebbero detto di no. Certo, dopo il parto ritorni? Ma dopo il parto piano piano, vediamoci, cioè l'obiettivo è di riniziare l'attività e puntare al mondiale di settembre 2014, però attenzione, questo è quello che io penso, poi bisogna vedere se mio figlio mi dà tregua, se dorme, tutto bene, bisogna vedere come, se dorme, bisogna vedere come mi organizzo, se no mi prenderò anche tutto il prossimo anno per poi ripartire nel 2015, ma insomma prendiamo le cose un po' per volta. Comunque la speranza di essere a Rio nel 2016 c'è, questo lo possiamo dire? Ma io ci punto, sì, sicuramente ci punto, sì. Grazie a Chiara Cainero. Grazie a voi. Grazie Chiara, complimenti ancora, così come complimenti ad Arianna Errigo ed Elisa Di Francisca, che sono in semifinale ai mondiali di scherma, quindi porteranno due medaglie sicure alla nostra spedizione. Abbiamo ancora un minuto, Felice da Roma, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Io solo chiedere una cosa, secondo lei come si, permettendo che la Lazio rimanga così, sì, come si inserisce secondo lei Lazio in questo panorama calcistico del prossimo anno? Se può lottare per qualcosa di importante o no? Sì, dipende, Felice, cosa si intende per qualcosa di importante, lei cosa intende? Io attendo anche un terzo posto, una lotta per la Champions. Ecco, io non credo che la Lazio sia attrezzata per inserirsi nella lotta per la Champions, però credo che la Lazio possa aspirare a fare una stagione che sia in fotocopia con l'ultima, con le ultime due, e secondo me è comunque una stagione importante. Poi ho l'impressione che Lotito stia sfruttando questi mesi per costruire il futuro, ha investito molto, ha scelto dei giovani in gran parte sconosciuti, probabilmente vedremo i frutti di queste scelte tra un paio di anni, così come è stato in passato. Io fossi dei tifosi della Lazio sarei fiducioso, probabilmente non per il podio, ma comunque per un campionato che possa dare delle soddisfazioni, così come è stata l'ultima stagione, magari anche a partire dal 18 agosto, perché la Lazio si è molto nascosta, almeno dal punto di vista mediatico, l'abbiamo vista poco, abbiamo visto la Juventus, abbiamo visto che ha delle difficoltà anche a livello fisico, si gioca all'Olimpico, non lo so, io faccio fatica a identificare un favorito per la finale di Supercoppa. Noi ci fermiamo qui. Io ringrazio e saluto Franco Piantanida, autore di questa puntata, Filippo Aureggi in regia. L'appuntamento è per domani a partire dalle ore 14. Un saluto da Giovanni Capuano.